4A. Ascolta e trasforma. Ha studiato molto? Quando avrà studiato, riposerà. Ha ricevuto un premio? Quando avrà ricevuto un premio, festeggerà. Ha scoperto tutto. Quando avrà scoperto tutto, riderà. Ha finito di studiare. Quando avrà finito di studiare, andrà in vacanza.